I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Nel nuovo scontro tra i falchi di Bruxelles, ossia il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, e il governo italiano, ossia il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, non c'è solo un botta e risposta. Certo, tutto si è innescato per le dichiarazioni di Dijsselbloem che, con un chiaro riferimento all'Italia, ha frenato sulla proposta della Commissione europea di un maggior spazio di manovra nei bilanci dei vari Paesi membri per sostenere la crescita. Non siamo ancora abbastanza stabili per lasciarci andare, ha detto Dijsselbloem. Immediata la risposta del governo italiano, Dijsselbloem non ha la consapevolezza di cosa accada in Italia. Detto così, saremmo ancora appunto a uno scontro tra Italia e Bruxelles. In realtà, sullo sfondo, la posta in gioco è ancora più alta. Dijsselbloem, infatti, come presidente dell'Eurogruppo, ha voluto infatti dire alla Commissione europea: attenzione, se ci sarà da concedere maggiore flessibilità e mutare in qualche modo le regole europee, lo decideranno a livello politico i rappresentanti dei singoli paesi, non tanto la Commissione europea. La discussione può sembrare tecnica e delle volte anche speciosa, ma non è così. Evitare che la Commissione europea rubi spazio alla rappresentanza politica, ossia all'Eurogruppo, permetterà infatti ai vari paesi che saranno in campagna elettorale l'anno prossimo, in primo luogo la Germania, di rivendicare posizioni politiche in seno all'Europa e non lasciare che queste vengano indicate da un soggetto terzo, qual è percepito la Commissione europea. La domanda di fondo è però se tutta questa polemica non rischi di indebolire ulteriormente la figura della Commissione europea stessa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.